Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, tra poco vi presentiamo i progetti, anzi iniziamo subito perché ci sono come ogni settimana due progetti scelti dalla piattaforma di Apple. Trovate tutti i dati sul sito di Apple, ma anche sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24 o anche sulla pagina specifica, sempre sul sito di Radio 24, di Crowd Me Up. Cominciamo con il primo progetto, vai! Si chiama ReLife ed è il tessuto del futuro, è antiacaro, è batteriostatico, riduce i rischi di asma e infezioni e rispetta l'ecosistema. Ma c'è tanta ricerca dietro a questo prodotto riciclabile al 100%, è un'idea made in Italy dall'altissimo valore innovativo e tra l'altro dal bassissimo impatto ambientale. Per aiutare lo sviluppo di questo super tessuto però servono 5.000 euro, credo. Ce ne parla Mirella Civardi, buongiorno, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Co-founder di Respect Life, ti chiedo se la cifra è 5.000 euro, perché non, sì, non vedo esattamente sulla... 5.000, sì. Perfetto, voi chiedete 5.000 euro. E allora Mirella, io ti chiedo in un minuto di tempo, poco più, di spiegare come e perché possiamo sostenere questo progetto. Allora, il nostro progetto è assolutamente innovativo perché non parte dall'idea di un prodotto, ma parte dall'idea di rispettare la salute. Noi produciamo abbigliamento, biancheria da casa, che appunto proteggono dai rischi di infezione, di asma e di allergia. E siamo partiti dal polipropilene, perché il polipropilene è un materiale che è biocompatibile e viene utilizzato fin dagli anni 60 durante gli interventi chirurgici per essere inserito stabilmente all'interno del corpo umano. Quindi sappiamo che non può dare nessuna forma di allergia o di problema sulla pelle. Però guardiamo anche alla bellezza del tessuto, alla sua morbidezza. I nostri tessuti sono morbidi, leggeri, sono traspiranti e sono uguali a quelli tradizionali, cioè non è che uno deve pensare che noi diamo qualche cosa che sia diverso da quello che si aspetta per in una maglietta o in un lenzuolo. E poi abbiamo guardato moltissimo anche all'ecologia, perché la produzione industriale del polipropilene ha bassissimo impatto ambientale, ogni sporco si elimina a 30 gradi con poco sapone ed è riciclabile al 100%. Ok, allora, noi siamo rimasti in silenzio perché la spiegazione è anche molto ricca di particolari quasi scientifici, quasi tecnici, perché parliamo di un'idea imprenditoriale molto innovativa. Mirella, complimenti intanto, grazie, direi. Ma è una fibra biodegradabile, no? No, è riciclabile perché è una plastica, però è una plastica molto particolare. Che ha tutte queste proprietà che abbiamo appena ricordato, certamente. Sì. Benissimo, Mirella, resta con noi. Agli ascoltatori di restare concentrati perché questo era il primo progetto imprenditoriale, un'idea innovativa che guarda al futuro. Per il secondo progetto invece ingraniamo la retromarcia, partiamo per un viaggio indietro nel tempo. Il secondo progetto è Dalla mano dell'uomo, è il titolo di un documentario che vuole raccontare le storie dei giovani artigiani che riscoprono gli antichi mestieri della tradizione. E quindi sarà un viaggio attraverso tutta l'Italia alla scoperta di luoghi e mestieri che credevamo perduti. Per rendere possibile questo documentario servono 3.000 euro. Ce ne parla Marcello Fiorenzo Valerio della MFV Produzioni, benvenuto, buongiorno. Grazie, benvenuti, grazie anche a voi. Buongiorno. E allora, buongiorno anche a te, un minuto di tempo, poco più, per spiegarci come e perché di questo progetto. Allora, Dalla mano dell'uomo praticamente è un documentario che intendiamo realizzare appunto per esplorare le storie di antichi, di giovani artigiani che vogliono riscoprire vecchi mestieri che si pensava appunto perduti e che invece la tendenza oggi è quella di riprendere in mano le tradizioni e attualizzarle al mondo moderno. Penso per esempio che ci sono appunto ad esempio il cappellaio che cuce a mano tutti i suoi cappelli e poi ha un portale su internet dove li vende, dove si fa pubblicità ad esempio sui social media e così lui rende la sua arte artigiana, un'eccellenza artigiana riconosciuta in tutto il mondo. Queste altre storie ovviamente dentro il documentario che si chiama appunto Dalla mano dell'uomo. Ma fantastico. Con un timing perfetto. Addirittura devo dire, hai anticipato di qualche secondo il gong. Quindi, Marcello, complimenti. Avresti diritto in realtà ad un supplemento di tempo. Come pensate di impiegare in particolare questi 3.000 euro, per esempio? Te lo chiedo io, Marcello. Sì, in particolare noi intendiamo utilizzare questa somma solo esclusivamente per coprire le spese di trasporto e vitto e alloggio, perché appunto di chi realizzerà poi il documentario, di chi realizzeremo noi il documentario. Perfetto. E essendo già noi una casa di produzione abbiamo già tutto, uomini e i mezzi, costi per vivi poter, i costi vivi vanno i pagati, costi vivi, giustamente. Esattamente. Allora, agli ascoltatori che sono Vincenzo da Salerno e si è aggiunto anche Piero da Roma, chiedo di dare un giudizio su questi due progetti, il tessuto innovativo antiallergico e il documentario dedicato invece agli antichi mestieri. Partirei con Vincenzo da Salerno. Quale due progetti, Vincenzo, ti ha convinto? Il documentario sicuramente. Perché così? Tac, sei molto convinto? C'è un motivo? Perché rimette in essere tutti gli antichi mestieri e dà opportunità agli altri di imparare qualche cosa che possa sostentare la persona per sempre, va? Soprattutto giovani artigiani che possano rilanciare questi vecchi mestieri. Benissimo, Vincenzo, il tuo voto va là. E invece Piero da Roma, che so che vuole intervenire anche, sì, sui temi del programma, tra poco lo sentiamo. Però Piero, intanto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Quale dei due progetti? Ce n'è uno che ti ha convinto? Assolutamente il documentario. Anche tu il documentario, quindi sì, gli antichi mestieri, il fascino degli antichi mestieri associato al momento, battono il tessuto. Ma abbiamo un terzo giurato? Sparigliano, no, perché l'ascoltatrice che c'era credo che non ci sia più. Io però a Mirella Civardi di Respect Life dico non prendertela, perché in realtà, come sempre, questo non è una vittoria ma è una presentazione di due progetti che sono tutti e due nessuno perde, meritevoli, nessuno perde, e li ritrovate tutti i progetti, entrambi e anche tanti altri, sulla piattaforma di Apple. Andate, cari ascoltatori, e se vi siete rimasti convinti potete dare una mano con un piccolo investimento, una piccola offerta. Grazie quindi a Mirella Civardi di Respect Life, ma anche Marcello Fiorenzo Valerio di MFV Produzioni per Dalla Mano dell'Uomo. Con Cloud Me Up ci risentiamo sabato prossimo e sarà, credo, l'ultima puntata per questa stagione, perché poi lo diciamo? Lo diciamo. Da domani non siamo in diretta e fra due sabati non saremo neanche più in diretta. Cioè, sabato prossimo è l'ultima puntata in diretta. Cloud Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple.